известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. During the campaign, we had a three-word saying, yes, we can. But now we have another three-word saying, which is we are one. Yes, we can, we are one. Avete già capito in che area siamo. Siamo nell'area della leggenda americana del XXI secolo, per come si è configurata, per come è nata e cresciuta rapidamente nel giro di un paio di stagioni, praticamente poi le stagioni che rappresentano anche la vita di questo programma, e porta il nome dell'attuale presidente, il numero 44, ovvero Barack Obama. C'è chi è convinto che sia un immotivato culto, chi è convinto che a forza di parlarne la propaganda possa avere effetti di tutti i generi, no? Generare delle vere e proprie sette di adoratori privi di raziocinio, oppure stancare e disilludere chi ci aveva creduto in termini più pragmatici. E c'è tanta gente che ne vive anche sui riflessi, grazie all'indotto, no? Il grande indotto obamiano del rinnovo di una politica che infatti Obama è un vero e proprio crinale, c'è cioè un prima e un dopo, c'è cioè comunque questa voce di un rinnovamento, quello che in campagna elettorale si chiamava change, che poi ha preso il nome di speranza e poi è diventato ancora il recovery, il tentativo di ricostruire sulla base di una crisi che è piombata sull'inaugurazione, sugli inizi della presidenza di questo straordinario personaggio arrivato a vincere partendo praticamente dal nulla. E dunque vi dicevo, tante persone che ruotano, no, nell'orbita di questo sole, tutto attorno, lo circondano, lo conoscono, ne parlano e ne sono in un certo senso testimonial. Noi ne abbiamo incontrato uno particolarmente interessante e piuttosto originale anche nei punti di vista, è molto ravvicinato alla biografia di Barack Obama, anche alla parte meno nota, quella arrivata prima della forma di telecamere, televisioni, riflettori e microfoni. Si chiama questo signore Hill Harper, ha 43 anni, nativo di Iowa City, conosciuto anche a tanti tra coloro che ci stanno ascoltando, che magari non hanno collegato il suo nome con un volto, perché questo volto è quello di uno dei personaggi di una famosa serie televisiva, CSI versione New York. C'è un attore afroamericano, Hill Harper appunto, che presta il volto al personaggio di Sheldon Oaks. Tra l'altro Hill Harper ha dei più che discreti trascorsi cinematografici, soprattutto al servizio della firma più brillante del cinema nero degli ultimi due decenni, ovvero Spike Lee, per il quale Hill Harper ha lavorato in due film: il film documentario Bus in viaggio, no? La storia dell'avvicinamento verso la capitale per protestare per i diritti civili da parte di un gruppo di neri, e poi un altro film che ci è particolarmente caro proprio così per tematica, un film che si chiama He Got Game, ed è un film dedicato al mondo della pallacanestro e soprattutto a come lo sport abbia rappresentato e tuttora rappresenti in grandi comunità nere, tra le meno ricche, le meno fortunate, una via di fuga, una via di successo, a tutti gli effetti una opportunità laddove ne mancano di altre più tangibili. E dunque Hill Harper è amico da molti anni di Barack Obama. Questo è il cuore della trasmissione di oggi, i suoi racconti attorno agli inizi di Barack Obama. Tra l'altro sono entrambi appassionati di pallacanestro, entrambi giocano a pallacanestro e lo fanno tuttora e spesso insieme. Pensate che il 4 novembre, no, il fatidico giorno della vittoria, Obama e Hill a un certo punto hanno fatto un po' di tiri a canestro insieme, no, nell'attesa del grande risultato. Dove si sono conosciuti? Si sono conosciuti naturalmente sui campi di pallacanestro, dove a Harvard, università top americana, soprattutto per la sua scuola di legge alle porte di Boston, a Cambridge, no? Sul fiume Charles, una delle più rinomate università del mondo, della Ivy League. A fine anni 80, i due personaggi, il giovane Barack Obama e il giovane Hill Harper, che ha qualche anno meno di Obama, 3-4 anni meno di lui, si incontrano giocando a pallacanestro, e da allora non si sono più persi di vista, anche se le carriere che hanno intrapreso sono completamente diverse. Harper oggi vive in California, recita, scrive, si dedica anche ad attività filantropica, è proprietario addirittura di un ristorante italiano, non chiedeteci perché, non lo sappiamo, ma lo chef sappiamo essere piemontese, e ha fatto attivamente campagna elettorale per Barack Obama. Poi è venuto qualche giorno fa a Roma, noi lo abbiamo incontrato al Centro Studi Americano insieme a un gruppo di studenti del liceo scientifico Cavour. Per circa un'ora Harper si è esibito, no? Con la sua sapienza di attore e poi con anche la sua memoria storica e culturale, una specie di sermone, no? Raccontando agli ragazzi romani cosa voglia dire combattere per l'elezione di un presidente nero nell'America di oggi. Poi ha fatto anche molto il gigione, insomma, ha messo tanti autografi, si è messo a correre tra le sedie, ha fatto battute di ogni genere, alcune le ascolteremo insieme durante l'intervista. Vi preavviso che una parte delle dichiarazioni che ascolterete di Hill Harper è registrata proprio durante l'incontro con gli studenti, in parte è un'intervista che gli abbiamo poi fatto noi a quattro occhi, quindi ci sono alcune differenze di audio, però è un personaggio interessante e soprattutto ci permette di offrirvi un punto di vista inedito di quello che in questo momento è a tutti gli effetti l'uomo più popolare, più famoso del mondo. Ma insomma, ecco come avviene il primo incontro tra Harper e Obama. Siamo ad Harvard, fine anni 80, i due sono iscritti, nonostante la differenza di età, alla scuola di legge, fanno anche lo stesso corso, nonostante questa differenza di età, e ricorda Harper che le biblioteche Harvard sono sempre piene, invece i campetti non è un posto dove si va a giocare a basket Harvard, ma si va a studiare, a diventare grandi avvocati. I campi da basket sono semideserti, però invece Harper intravede questo ragazzo nero, alto, magro, che gioca pure piuttosto bene e ha questo buffo nome Barack. Ecco il primo incontro. That was a very strange name to me. Beh, suonava molto strano come nome, non l'avevo mai sentito prima. And I said, my name is Hill. And he said, that's a very strange name. E io gli ho risposto, io mi chiamo Hill. E lui mi ha Hill Collina. E lui mi ha risposto, beh, pure il tuo non scherza come quanto a stranezza. So I said, let's play. Io ho detto, ok, giochiamo. So for the next 3 years, when we were at Harvard, we played basketball. Quindi in 3 anni successivi in cui abbiamo frequentato la Harvard, abbiamo giocato a pallacanestro. We would talk about our goals and dreams and what we wanted to accomplish in life. E ovviamente nelle nostre conversazioni parlavamo dei nostri obiettivi, dei nostri sogni, di quelle che erano le mete della nostra vita. So fast forward a number of years later, my friend says he wants to be the president of the United States. Allora, diciamo che a questo punto andiamo avanti veloce, qualche anno dopo il nostro primo incontro, il mio amico dice: voglio fare il presidente degli Stati Uniti. And this friend of mine, he didn't grow up with a lot of money. In fact, when he was young, he was raised by a single mother and they at a point in their lives were on food stamps. E va detto tra l'altro che questo mio amico non aveva grandi ricchezze, non disponeva di grosse disponibilità economiche ed è stato cresciuto da una madre single, e per un certo periodo della loro vita hanno avuto bisogno anche di ricorrere all'assistenza pubblica per poter vivere. And he also looked very different than any president in history. Oltretutto, anche da un punto di vista fisico, era molto diverso come aspetto da qualsiasi altro presidente degli Stati Uniti. So from the outside looking in, you'd say that was impossible. Per cui dall'esterno, guardando verso l'interno, uno avrebbe detto impossibile. But since the world, like I said, is changing, nothing is impossible. Però siccome, come vi ho detto, il mondo sta cambiando, nulla è impossibile. Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing, devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black, you can trust. Take your God-filled soul, filled with the devils and dust. Well, I dreamed of you last. E torniamo dunque al nostro Hill Harper, il personaggio del quale avete fatto finalmente la conoscenza, questo attore nero, amico di Barack Obama lungo gli ultimi 20 anni, suo compagno di studi a Harvard. Abbiamo sentito come si sono conosciuti. Naturalmente sono tantissimi gli aneddoti che Harper può raccontare legati alla figura di Obama, ad esempio quello che riguarda la nascita, no, di quella famosa icona che ha rappresentato, ha descritto Obama in stile Andy Warhol, no? in tutto il mondo. Oggi è famosissima ed è opera, guarda caso, di un suo amico con distinti trascorsi da graffitaro. Ascoltate. I have a friend in Los Angeles who's an artist. He's a graffiti artist named Shepard Fairey. Ho un amico a Los Angeles che è un artista di graffiti, Shepard Fairey. And I loved his work for a long time, so whenever he would do a showing, I have an unhealthy addiction to art, and so I buy a lot of art. E siccome io amo moltissimo le sue opere, e ogni volta che lui, ed ho questa specie di insana dipendenza dall'arte, ogni volta che lui realizzava una mostra, io andavo e compravo, perché ne compro tanta di arte. It's bad. And so, macello. I had bought a lot of his work, and he called me and he said, Hill, I did an image of your friend, Senator Obama. Io ho comprato quindi tantissime delle sue opere. Un giorno lui mi chiamò e mi disse, guarda che l'ho realizzato un ritratto del tuo amico, il senatore Obama. He did it on his own. He wasn't a part of the campaign at all. L'ha fatto così per conto suo, non era uno coinvolto nella campagna. He was motivated as an individual, saying I can bring my talents and my genius to bear to hopefully create something positive. Lui l'ha fatto come singolo, come individuo, pensando semplicemente posso mettere il mio talento, il mio genio a disposizione per far sì che si possa dare un contributo a qualcosa e renderlo possibile. So he said, will you give, it's hard for me to call him Barack because I have to call him President Obama, will you give him a poster? E lui mi ha detto, ed è per me difficile chiamarlo Barack perché si suppone che io lo debba chiamare Presidente Obama, comunque mi ha detto, glielo daresti un poster? So I gave him the poster. Gli consegno questo poster. They saw the poster, they said, this is an incredible image. E dopo averlo visto hanno detto, can we use it for the campaign? È incredibile questo ritratto, lo possiamo utilizzare per la campagna? And so this is the original. He put progress. This is the artist put progress. Questa è l'immagine originale. È stato l'artista che ha scritto progresso. But when the campaign took it, they changed it to their motto, which was hope. E però quando poi la campagna l'ha presa per utilizzarla, l'hanno modificato secondo quello che è il loro modello. Invece di progresso hanno scritto speranza. Ma insomma, com'era questo giovane Obama, no? Spesso descritto da lui stesso nelle sue autobiografie come un ragazzo problematico, piuttosto confuso, ancora non in grado di individuare perfettamente quella strada che poi sarebbe delineata così netta, decisa e ambiziosa davanti ai suoi occhi. Sentiamo il ritratto che ne fa il suo vecchio amico Hill Harper. At that time I looked up to him, and not just because he was taller than me. All'epoca io lo guardavo dal basso verso l'alto e non solo perché era più alto di me. Because I was young when I went to graduate school, I went straight out of college. or university to grad school. Io praticamente sono andato direttamente, ero giovane quando sono entrato lì, perché sono andato direttamente dal college. But he had been working doing public service for virtually no money out of the basement of a church in a very tough area in Chicago for 5 years. Mentre lui in realtà aveva lavorato, quindi nel servizio pubblico praticamente senza beccare un quattrino, nello scantinato di una chiesa per 5 anni a Chicago, in una zona molto difficile, in un'area molto difficile della città. And I was so impressed by this man who committed to helping other people. E io sono rimasto estremamente colpito da quest'uomo che si era impegnato ad aiutare gli altri. There are so many people that commit to just helping themselves. Perché ci sono tante persone che si impegnano ad aiutare solo se stessi. And when we graduated from Harvard Law School, he was the top graduate from our class. E quando ci siamo laureati dalla Harvard Law School, lui era il laureato con il massimo dei voti della nostra classe. And this is the amazing thing. E questa è la cosa sorprendente. Since he was the top graduate, he was offered all this opportunity, the chance to work for hundreds and hundreds of thousands of dollars at a law firm, the chance to clerk for the United States Supreme Court and do all these powerful jobs. E dal momento che appunto era quello che si era laureato col massimo dei voti, gli furono offerte una miriade di possibilità, da centinaia di migliaia di dollari, tipo la possibilità per esempio di lavorare all'interno dei più famosi studi legali, oppure di andare a lavorare come dipendente della Corte Suprema, opportunità grandiose. But watch this, he turned them all down and everybody thought he was crazy. Guardate un attimo, lui rifiutò tutte queste offerte, tutti quanti pensavano che fosse pazzo. Because they didn't fit with who he was, his purpose. Perché in realtà, secondo loro, non rientravano, non riuscivano a capire chi fosse questa persona e quale fosse il suo obiettivo. He decided to go back to Chicago and work helping people the same way he did before. Decise invece di ritornarsene a Chicago e ad aiutare le persone lavorando esattamente come aveva fatto prima di questa laurea. And everyone thought that this guy ruined his life. E tutti quanti pensavano che questo tizio avesse completamente distrutto la propria vita. But if you do what's in your heart, the universe will conspire to make your dreams come true. Ma se fai quello che hai nel cuore, l'universo poi cospirerà e ti aiuterà a realizzare i sogni. Una lunga strada dunque quella che Barack Obama ha percorso, dalla specializzazione a Harvard fino addirittura alla formidabile, leggendaria rincorsa della Casa Bianca, il successo nella sua candidatura prima per la nomination democratica e poi addirittura la vittoria nelle presidenziali. E a questo proposito vogliamo fare un salto proprio di 20 anni e provare a chiedere a Harper che cosa abbia provato il giorno delle elezioni, quando quel sogno così difficile da realizzare in effetti è diventato realtà. So many people worked so hard for so long on the campaign. Tantissime persone hanno lavorato veramente sodo e per un lunghissimo periodo alla campagna. That I was really relieved because the right result happened. And sometimes we see in life that the not necessarily right result can happen. And that's a prop, you know, it's an obstacle, but we try again. But in this case, the right thing happened, and the right candidate, the right person won. And so it made me feel relieved and very good about the possibilities of the change that's happening in my country as well as hopefully around the world. Devo dire che mi sono sentito molto sollevato quando finalmente è stato eletto, perché finalmente era stata fatta la cosa giusta, era stato eletto il giusto candidato. Tante volte nella vita ci si impegna a fondo e poi purtroppo però le cose non vanno come vogliamo. Allora uno ci riprova, si dà una seconda chance, ma in questo caso mi sono sentito sollevatissimo all'idea che la persona giusta era stata eletta e che finalmente il mio paese poteva cominciare a cambiare, che la situazione poteva cominciare a cambiare nel mio paese e mi auguro anche nel resto del mondo. Lift me, won't you? Lift me above the old routine, make it nice, lay it clean, jazzman. una puntata monografica quella che vi stiamo offrendo oggi, ed è anche un ritratto inedito e credo piuttosto originale del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, tracciato attraverso i ricordi, le testimonianze di Hill Harper, questo personaggio dello spettacolo americano, un attore noto anche da noi per CSI New York, per la partecipazione in alcuni film di Spike Lee, ma che è amico e compagno di studi di Barack Obama fin dalla fine degli anni Ottanta, fin dalla partecipazione alla facoltà alla scuola di legge della Università di Harvard. E proprio da qui vogliamo ricominciare a interrogare Harper, perché proprio in questa scuola a Boston tanti membri dell'attuale amministrazione della Casa Bianca sono transitati, quasi dando la sensazione, insomma, di una vecchia lobby che si è ricostituita al momento in cui il più brillante di tutti è diventato addirittura presidente degli Stati Uniti d'America. Una vecchia rete di conoscenze e di collaborazioni. Ma che cos'ha di speciale, abbiamo chiesto a Hill Harper, dunque, questa scuola di legge di Harvard? Harvard Law School, you know, is educational. Diciamo che la Harvard Law School è una istituzione educativa che tende a essere estremamente competitiva, nel senso che tende a creare molta competizione fra coloro che vogliono accedervi, perché è molto selettiva, e quindi a loro piace pensare che gli studenti che vengono ammessi a frequentarla sono sicuramente i migliori e più intelligenti, i più capaci. Questo ovviamente non significa che altre istituzioni non abbiano studenti di pari livello, di pari intelligenza, e comunque ci sono moltissime persone brillanti che non frequentano neanche il college. E ovviamente quello che capita a tutti quanti noi è che quando uno si trova a frequentare un certo posto, poi tende a creare rapporti di amicizia e di collaborazione con le persone che incontra, con le persone che conosce. E devo dire che alla Harvard Law School si è creato fra di noi, abbiamo creato all'epoca un gruppo di persone molto capaci e anche molto dei gran lavoratori, e durante la campagna molte di queste persone si sono date da fare, hanno lavorato sodo per consentire l'elezione del presidente Obama, e il presidente Obama a sua volta ha scelto fra alcune di queste, fra queste persone, alcune che sono entrate a far parte della sua amministrazione. Sono tutte persone molto impegnate, molto attive, che lavorano sodo e che si danno da fare. Altro argomento in comune tra Harper e Obama è lo show business, la comunicazione, l'esperienza, la capacità di intuire, di pilotare una immagine nel contemporaneo dominato naturalmente dai mass media, una delle motivazioni ormai dagli esperti individuata alla base del successo della candidatura di Barack Obama. La TV dunque ha avuto veramente un ruolo, oltre naturalmente all'uso del web, della rete, di internet da parte di Obama. Chiediamo a Harper se è d'accordo su questo, e in genere se in questo momento, a inizio XXI secolo, ormai la televisione è anche un fattore, ad esempio nel permettere che un afroamericano arrivi fino a un grande successo di questa portata, e più in genere se è un fattore che migliora l'immagine della comunità afroamericana. Ascoltiamo. I believe that all pop culture, television, music, everything has an impact. Io credo che tutta la cultura pop, sia essa la televisione, sia essa la musica, comunque hanno avuto un impatto sulle persone e sulla società. A volte questo impatto è positivo, a volte è negativo, a volte rafforza gli stereotipi, a volte invece li disgrega, li manda in pezzi. Ci sono dei ruoli che io ho interpretato che hanno aiutato secondo me, e ci sono invece dei ruoli che io ho scelto di non interpretare perché temevo che potessero mandare un cattivo messaggio. Ogni volta che mi viene proposto un ruolo io lo accetto e lo scelgo sempre sulla base di quello che è il messaggio che si vuole fare arrivare al pubblico, e la cosa a cui ho sempre posto attenzione a non interpretare nessun ruolo che potesse in una qualche maniera essere denigratorio nei confronti degli afroamericani. Ci sono stati dei ruoli ai quali ho detto no grazie, che non cito per rispetto nei confronti invece di quegli attori che hanno accettato di interpretarli, perché secondo me davano una pessima rappresentazione rappresentazione dell'afroamericano, i ruoli che mi avrebbero reso sicuramente più famoso, sicuramente più ricco, ma che per me non erano la giusta rappresentazione. E sicuramente Eisner, Morgan Freeman, che hanno interpretato questi ruoli di presidenti di colore, hanno indubbiamente ha avuto un impatto sullo spettatore che ha seguito e che segue queste fiction, così come questi stessi attori se interpretano dei ruoli in cui appaiono in ceppi, con le manette, appaiono mentre rapinano, realizzano una rapina o commettono un crimine, hanno comunque un impatto in questo senso negativo sulle persone. Quindi penso che la fiction e programmi di questo genere possono avere un impatto, certo sì, hanno condotto all'elezione del presidente Obama? Sicuramente no, anche perché la fiction 24 ore, vogliamo essere generosi, diciamo che c'è un 14-15 milioni di spettatori, ma gli Stati Uniti è costituita da 300 milioni di abitanti, quindi ci sono 285 milioni di persone che non seguono, che non guardano 24, che quindi non hanno potuto essere influenzati da questo programma, ma chi l'ha visto sicuramente ha avuto un'influenza. Insomma, abbiamo capito che anche Harper, se non ha la stessa statura politica di Obama, guarda comunque con interesse alla politica, intesa come no, un palcoscenico nel quale una persona con idee, intelligenza, brillantezza e anche una certa capacità interpretativa può arrivare a successi ragguardevoli. A questo proposito gli abbiamo proprio chiesto se un giorno anche lui pensa di darsi alla politica. I'd never say never about something. Io sono il tipo di persona che non dice mai, mai. Non sono abituato a dire mai che non farò una cosa. E per il momento comunque gli obiettivi che ho sono determinati obiettivi che sono quelli fondamentalmente di servire gli altri, di fare tutto quello che è nelle mie possibilità per aiutare, per dare una mano agli altri. Se questo poi significherà o dovesse significare di entrare in politica, forse lo farò. Ma quello che mi interessa è cercare di capire qual è il modo più efficace per poter arrivare agli altri. Sicuramente voglio continuare a recitare, sicuramente voglio continuare a fare il filantropo, se poi aiutare gli altri mi riuscirà meglio attraverso la politica farò il politico, se invece continuando a fare il filantropo continuerò a fare il filantropo. Io ho, grazie alla fondazione che ho creato, potuto erogare più di 100.000 dollari suddivisi in varie borse di studio a giovani che purtroppo sono svantaggiati, consentendo loro di poter acquisire un livello di istruzione e di educazione che diversamente non avrebbero potuto raggiungere e ottenere, cosa che se fossi stato un politico ovviamente non avrei potuto fare. Quindi so che ancora qualche anno voglio continuare a recitare, so anche che probabilmente nel giro di una decina d'anni smetterò di recitare e mi dedicherò a altro, mi dedicherò agli affari, continuerò appunto a fare il filantropo, poi voglio costruire delle scuole, per esempio Andre Agassi, il tennista, per me è una fonte di tanta e grande ispirazione. Lui, grazie ai soldi che è riuscito a guadagnare sia col tennis che con varie altre attività nel mondo degli affari, è riuscito a costruire numerose scuole nei quartieri più poveri e degradati di Las Vegas. E quindi anch'io voglio seguire questo esempio, perché secondo me l'istruzione è veramente la struttura portante per ogni individuo, che consente ad ogni individuo poi di raggiungere e realizzare i propri sogni. I thought I met a man who said he knew a man who knew what was going on. I was mistaken. Thank you. I tell you about that stranger in the house. He's not a stranger. He's our father. I don't have a father. Look, I need to talk to you. You'll see me around. The man escaped just like Shawshank. I beat around the bush. We love you. E questo è il trailer di God Game, il film di Spike Lee a cui L'Harper ha partecipato qualche anno or sono, insieme tra l'altro a una nascente star della pallacanestro professionistica, poi si sarebbe rivelato al mondo come Ray Allen, attualmente in servizio dei campioni NBA dei Boston Celtics e protagonista del film di Spike Lee, perché Spike Lee ben prima che Obama fosse un nome anche soltanto conosciuto, ascoltato nella cultura afroamericana, invece da anni è un punto di riferimento, un testimone, un interprete, in certi casi anche un leader. E quindi a Harper abbiamo chiesto un ritratto, un suo punto di vista su questo protagonista della cultura afroamericana, ovvero Spike Lee. Spike Lee is an amazing director because he lets his actors act. Spike Lee è un regista fantastico perché lascia agli attori la possibilità di recitare. There are many directors that I believe are afraid of actors. Sono molti registi che secondo me hanno paura degli attori. Meaning they try to limit what we do and they're afraid of exploration. But Spike Lee encourages you to take risk, encourages you to create an interesting character. In fact, he even creates competition among actors, which is very rare. He creates competition saying he's out acting you, you better step it up. E invece secondo me questi registi hanno paura degli attori, per cui cercano di limitarci, hanno paura dell'esplorazione, hanno paura della creatività. Invece Spike Lee è un regista che lascia che l'attore si esprima liberamente, che corra dei rischi, e anzi è uno che spinge alla competizione, crea la competizione tra gli attori, cosa che non fanno in molti. Dice: quello sta recitando meglio di te, quindi è bene che ti dai da fare per essere all'altezza. A lot of people don't realize is that if you look back at careers of a number of famous actors. E quello che molte persone di cui non si rendono conto è che se uno va a ripercorrere la carriera di numerosi attori famosi, Spike Lee has started their careers. È stato Spike Lee che gli ha avviato la carriera. Samuel L. Jackson. John Turturro. Rosie Perez. Hill Harper. And on down the list. E la lista è lunga. And I don't think there's another director in the world that you can name that has started the careers of as many top-notch actors as Spike Lee. E non credo. And he doesn't get credit for that. E non credo che ci sia nel mondo un altro regista che abbia avuto la capacità di creare carriere, poi che sono diventate carriere di successo di attori famosissimi, così come è riuscito a fare Spike Lee. E purtroppo a lui il merito non viene dato, né lui se ne arroga il merito. E mantenendo viva la questione della razza, una questione che da sempre è stata al centro, come sapete, del cinema di Spike Lee, gli stessi studenti del Cavour che hanno partecipato alla conferenza di Harper si sono sentiti in dovere di fare una domanda così un po' scottante, un po' scomoda a Harper, ovvero se ha mai subito in vita sua, durante la sua carriera, la sua vita pubblica, atti di razzismo. So many. Ho avuto mai esperienze personali di razzismo? Tantissime. I'll give you some examples. Ti fornisco qualche esempio. One time I was walking with my brother in high school. I was probably a freshman, first 13, 14 years old. And a car drives up to us as we're walking to the mall. The guy takes, he says nigger, takes the a big soda and dumps it on my head. Io stavo una volta camminando con mio fratello, ero diciamo in la scuola superiore, dicevo al primo anno, forse 14-15 anni così, e stavamo camminando verso il centro commerciale. A un certo punto si avvicina una macchina, un tizio da dentro la macchina mi fa negro, poi prende un grosso bicchierone praticamente di soda, di acqua minerale e me la rovescia in testa. When I was in fourth grade, I was on the school bus once and I had curly hair. Quando una volta ero al quarto anno, ero sull'autobus della scuola e avevo all'epoca i capelli and ricci. Kids took gum and put it in my hair and it got all in my hair and I had to cut it out. E per esempio dei ragazzini mi hanno appiccicato sui capelli ricci la gomma da masticare, quindi me li sono dovuti tagliare tutti. And then there are more subtle forms where maybe you'll get paid less for a job that you're doing equal to someone else. E poi ci sono delle forme più sottili di razzismo, dove magari ti pagano meno per uno stesso lavoro che viene fatto da un altro che però non è del colore della tua pelle, quindi lui lo pagano di più a te meno. Like a movie, there was a clip from a film I did called The Skulls. Per esempio una clip di questo film che ho fatto, The Skulls, i teschi. Joshua Jackson from Dawson's Creek and Fringe. And con Joshua Jackson di Dawson Creek e Friends. Paul Walker from Fast and Furious. Paul Walker del film Fast and Furious. We're all in the movie together, have similar roles. Siamo tutti nel film insieme, abbiamo interpretato dei ruoli simili. But they'll make significantly more than me. Ma loro guadagnano molto più di me. But the interesting thing about obstacles, because that's what racism or sexism or any type of ism is, whether it's religious bias, race bias, or sexism. E però questa è la cosa interessante, gli ostacoli, perché fondamentalmente il razzismo o il sessismo o qualsiasi cosa finisca con ismo in questo senso, sia che sia un pregiudizio di tipo religioso, in termini di sesso. It's just a temporary condition and most people haven't been exposed to new ideas or new thoughts, so I don't let it stop me ever. È soltanto una condizione temporanea e la maggior parte delle persone in realtà non ha avuto modo di venire in contatto con nuove idee e nuovi pensieri, quindi su queste cose a me non mi fermano. E questo insomma è il ritratto, il modo in cui ha voluto presentarsi agli studenti italiani, anche agli ascoltatori di Radio 24, questo interessante personaggio, Il Harper, e a sua volta come ci ha aiutato a capire su una serie di aspetti così un po' più segreti, un po' più meno ufficiali, no? Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ormai onnipresente in televisione, ma ormai necessariamente per ruolo assai paludato, ma alla fine abbiamo concluso con la domanda delle domande, quella che non potevamo fare a meno di fargli, forse la cosa ci interessava più di tutti, insomma, fra lui e Obama, secondo Harper naturalmente, chi è più forte a basket? He's taller than I am and he has longer arms. Beh, presidente Obama è più alto di me, ha le braccia più lunghe, quindi una certa difficoltà in un certo senso. Peraltro io sono una guardia, point guard, lui è un'ala, non ci dobbiamo contrastare, poi spesso giochiamo nella stessa squadra. Devo riconoscere che è un bravo tiratore, io però sono più giovane, quindi sono più veloce, quindi una risposta politica, diplomatica politica, a volte è meglio lui, a volte sono meglio io. Very political answer. Sì, è un vecchio trucco, quello di dire che si gioca in ruoli differenti, no? Quindi purtroppo i nostri destini non si incrociano, del resto insomma rivolgersi al presidente degli Stati Uniti d'America, anche se è stato tuo vecchio compagno di studi, di scuola, e dire che a pallacanestro è un po' scarso, come dice il nostro amico, non è molto politico. Bene, speriamo di avervi fatto cosa gradita presentandovi questo personaggio, Il Harper, e i suoi aneddoti, i suoi ricordi, gli aspetti meno conosciuti di un giovane Barack Obama prima della grande rincorsa presidenziale. Lo ringraziamo della sua disponibilità e come sempre vi diamo appuntamento qui a Jefferson 2 e l'arte della svolta dopo le 4 qui su Radio 24. Ci risentiamo. Yeah.